Hadith numero 25. Pure da Abu Dhar, che Allah si compiaccia di lui. Egli raccontò che alcuni dei compagni dell'apostolo di Allah, che Allah si compiaccia di loro, dissero al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: o apostolo di Allah, i ricchi si portano via tutte le ricompense, essi eseguono il rito d'adorazione come noi, digiunano come noi, però fanno anche elargizioni in beneficenza con il superfluo delle loro ricchezze, cosa che noi poveri non possiamo fare. Disse: forse che Allah non vi ha dato di che fare elargizioni in beneficenza? In verità, ogni proclamazione che la qualità divina di Allah è incondivisa, tasbih, è sadaqa. Ogni proclamazione della grandezza di Allah, takbir, è sadaqa. Ogni proclamazione che non c'è divinità tranne Allah, tahlil, è sadaqa. Ogni ordine di fare il bene, al-amru bil ma'ruf, è sadaqa. Ogni proibizione di fare il male, an-nahyu anil munkar, è sadaqa. E nel vostro amplesso coniugale c'è sadaqa. Dissero: o apostolo di Allah, forse che c'è una ricompensa quando uno di noi soddisfa il suo desiderio? Disse: secondo voi non commette trasgressione se uno lo soddisfa in modo illecito? Così, se lo soddisfa in modo lecito, c'è per lui una ricompensa. L'ha riferito Muslim.